conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani? E a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. La conosco, sì, ma non c'era un rabbino? Sembriamo noi nello sprofondo dove siamo, fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta, è l'atterraggio. Porca puttana, mi sento come una formica persa nello spazio intergalattico. Scena, un dolore da 2 lire, ma non ne vale la pena. Ti ho già vista recitare, mentendo, ti cali dentro la parte, e dopo tutto diresti che sia la tua forma d'arte. Io credevo ciecamente nei tuoi baci disperati. Mentivi serenamente ed il sipario è calato. Teatro, il tuo è puro teatro, falsità ben recitata e studiato simulacro. E la tua scena migliore fu di strangolarmi il cuore. E oggi che piangi davvero, vedo recitare. Perdona se non ti credo, ma sembra puro teatro. E oltretutto, secondo te, nella storia sarei io il cattivo. Teatro, il tuo è puro teatro, falsità ben recitata e studiato simulacro. E la tua scena migliore fu di strangolarmi il cuore. E in te rivedo l'attrice e in me rivedo l'attore. Perdona se non ti credo, ma questo è puro teatro. Radio Plaza. Radio Plaza. Radio Plaza. Non l'abbiamo capito, è Segnatevi Radio Plaza. Segnatevi bene questo nome, non lo sentirete più. Radio Plaza. Siamo qui, siamo a Scisciano, siamo al Sanacore Folk Festival 2022. E vabbè, vogliamo iniziare abbiamo questa iniziato puntata. Abbiamo iniziato alla grande, abbiamo iniziato come al solito, abbiamo iniziato incerti. Abbiamo iniziato piano piano con perché qua ci cambiano le carte in tavola. Noi giochiamo con carte nuove e giochiamo con per qualche dollaro in più, ma chi non l'aveva riconosciuto. E poi subito dopo c'è stato un estratto audio dal film L'Odio e poi la sigla di questa puntatona speciale del Sanacore Folk Festival è puro teatro di, avete riconosciuto la voce di David Riondino e Open World Jet Quarter dall'album Il Bolero come terapia del 2016. Sì, noi siamo Radio Plaza, la radio estemporanea che arriva in piazza, blatera, urla e spiazza tutti, a volte si spiazza anche da sola e se ne va online su collettivoutopia.noblogs.org. Segnatevi questo indirizzo, collettivo con 2 L 2 T, utopia.noblogs.org. Lì troverete tutte le puntate di Radio Plaza, dappertutto dove siamo andati e anche dove non siamo andati, perché ci sono anche delle puntate registrate. Poco fa è arrivata Radio Plaza, ha passato anche la voce di Mimmo Lucano e anche questa puntata sarà presto disponibile sul blog. Radio Plaza, comunicazioni imprevedibili, spesso abusive di esperimenti ultraradiofonici. Radio Plaza, notizie, letture, poesia, utopia su Radio Plaza, musica, ospiti, rubriche speciali. Radio Plaza, trasmissioni non ordinarie di una radio extemporanea. Radio Plaza. Radio Plaza e KVQ. Radio Plaza. Radio Plaza e cos'altro vuoi dalla vita? Un Lucano? Lucano se n'è andato intanto. E intanto abbiamo ascoltato il brano Liz Tarantella di Ezra Rashlin, sempre nomi facili facili, qui a Radio Plaza. Dall'album Vintage Rashlin. Salutiamo tutte le radioascoltatrici che ci stanno ascoltando da Sydney in Australia, sicuramente. Perché? Bella, perché siamo online. Prima o poi ci andremo, intanto si sono già sedute persone, facce belle a questo tavolo. Sì. Abbiamo i primi ospiti della serata, sono già seduti con noi. Nonostante il tecnico del suono abbia dimenticato che noi dobbiamo fare una puntata radio, continuiamo qui in piazza in diretta e andiamo avanti con la nostra intervista. Chiamiamo anche alla radio quello che suonerà più tardi, cioè Sandro Joyer alla radio Appena Puoi. Appena posi l'amplificatore del basso, che di solito è un'incombenza del bassista e non del cantante. Andiamo avanti, quindi ospitiamo qui ai microfoni di Radio Plaza, sempre una radio imprevedibile e completamente imprendibile. Abbiamo Camillo De Felice ed Elia Ciricillo, che sono nomi non nuovi della radio, giusto, Anna? Sono già stati con noi, anzi noi siamo stati con loro per loro, sono state voci trasmesse sulla radio, però prima addirittura di... Radio Plaza ha trasmesso in anteprima un brano che ancora non è stato pubblicato. Che onore, che onore. Radio abusiva. Facciamo però a dirlo a loro brevemente, tanto come sapete fare voi, chi siete e che spettacolo farete stasera. Brevemente, come sapete fare voi. Brevemente. Fatelo insieme, allora, magari accavallatevi. Allora, parliamo noi, infatti parlo solo io, siamo in due, però... Questa diciamo, è la voce di Elia Ciricillo, per chi non vi conosce dal vivo. Siamo in due, ma come dissero una sera durante un concerto, anzi dopo il concerto, ma sembravate in cento. Wow. Cioè, incredibile, e quindi diciamo questa è la nostra caratteristica, facciamo sembrare due musicisti che diventano tantissimi sul palco, specialmente Camillo, diciamo il progetto in realtà è del mio amico Camillo De Felice, che ha pensato, scritto le poesie e anche cose in prosa, tutte cose originali però appoggiate da melodie e brani che comunque stanno sempre nella tradizione napoletana, non quelle proprio più conosciute, ma anche appunto le famose canzoni di giacca, canzoni con doppio senso, insomma ci si diverte. Quindi questa è la cosa più importante. Spettacolo divertente stasera. Sì, brillante, sì. Stasera faremo nello spettacolo, sono stati inseriti... E questa è la voce di Camillo De Felice. Sono stati inseriti due pezzi che usciranno in un disco, un lavoro fra qualche mese... per la musica di Elia Ciricillo e i testi fortunati, parole, Misiago. Fortunati gli ascoltatori di Radio Plaza in giro per il mondo che possono accedere a cose ancora non pubblicate, non le conosce nessuno, nemmeno noi, ma lo facciamo solo per voi, per l'amicizia che proviamo, che grande amicizia, amici tutti. E quindi brevemente, se vogliamo far venire voglia di vedere questo spettacolo che ci sarà tra poco, subito dopo la puntata, che cosa ci racconti? Come facciamo a raccontare in due parole, sempre come sapete fare voi, lo spettacolo di stasera? Niente, un teatro è uno spettacolo di teatro canzone, quindi si alterneranno poesie, racconti, canzoni, è tutto con un ritmo, speriamo, brillante. Lo spettacolo ha titolo Napoleide, sì. Che diciamo la dice lunga, esatto, su quello che può succedere. È il mondo, gira intorno a Napoleide. Gira intorno a Napoleide, tutto il mondo della nostra musica. E vi coinvolgerà sicuramente. Venite, partecipate tutti. E allora io ne approfitto perché... ho letto Camillo, aiutami, l'effetto apotropaico viene solitamente attribuito a un atto, oggetto o persona che servono ad allontanare il malocchio e gli influssi maligni. Apotropaico. Si parla per esempio di monile apotropaico, di rito apotropaico o gesto apotropaico. Ora siamo in radio. Il gesto possiamo farlo, ma non si vede, lo potrebbero vedere chissà qua in piazza Cisciano con noi. Il monile è una cosa che rimarrebbe qua così per pochi e noi vorremmo insieme a voi invece un bel rito apotropaico. Anche Camillo, una radio apotropaica potremmo dire, cosa, no? Radio Plaza, radio fare? Apotropaica. un rito apotropaico, riusciamo a farlo? Per me è un rito apotropaico, io dico che noi utilizziamo la voce come mezzo apotropaico nella nostra, per esorcizzare l'eruzione. Camillo è uno che conosce il termine apotropaico e questo è già, diciamo, è un vantaggio per noi, è un vantaggio. E quindi utilizziamo la voce sotto Vesuvio, quindi una frona di limone posso fare come mezzo apotropaico. Io sono d'accordo pronti, con la frona di limone. Pronti, pronti, Radio Plaza, pronti per il rito apotropaico. Radio Plaza a frona di limone. Bravo. E fronnerò limona, che bella mi c'è e quando me camicia buona la sera e a compare faccia fa notte aiuta. Questa è un'anteprima della voce di Camillo De Felice che tra pochissimo potete ascoltare sia in diretta qua da Piazza Borzillo a Scisciano, oggi sia il 10 luglio, fa un caldo bestiale, siamo al Sanacore Folk Festival e non la smettiamo, noi non la smettiamo ma trasmettiamo. Trasmetteremo tra pochissimo, ancora lo ripetiamo, lo spettacolo di Camillo ed Elia Napoleide, rimanete su Radio Plaza, non andate via. Ringraziamo Elia Ciricillo e Camillo De Felice che magari ciao belli. Dopo questo rito andrà veramente tutto bene. Sì. speriamo bene, speriamo proprio bene, sì. E allora, grazie ancora. Grazie. Vai col rito. Ah, vogliamo fare un gioco? Ah, c'è una... Allora, vuoi fare una virgola? Sì, facciamo una virgola. Allora, la virgola è questa. Posso improvvisare un giochino? Improvvisa, vai. Un giochino con Camillo De Felice. Le nostre radioascoltatrici sicuramente sono pronte a queste improvvisazioni. Allora, la virgola è questa, Camillo. Leggila un attimo. Allora, leggiamo dal copione, dal nostro fantastico tutto copione. Tutto improvvisato e Camillo non ha gli occhiali e non vede. Quindi facciamo che noi gli diamo l'input. Ok, allora la facciamo noi. Se noi diciamo... Ciurma! Vai Camillo, fatti sentire. Ciurma! Questo silenzio cos'è? Pelandroni, accendete Radio Plaza. Se la nenne, e io na, se la nenne, ta quella la nenne. We'll be right back. musicale maliano di jazz latino formatosi nel 1970. È stata una delle prime band dell'Africa occidentale a combinare questo suono afro-latino maturo con strumenti e stili tradizionali. La sua fama è stata costruita sulla mania per la musica jazz latina, in particolare cubana, emersa in Congo negli anni 40. E si sente profumo d'Africa qui su Radio Plaza. Buonanotte a tutti. Buonanotte, si può dire? No, è ancora giorno. Buongiorno, allora, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Si può dire buona vita, però, buona vita. Buona vita a tutti e buon viaggio, soprattutto. Allora, siamo qui in compagnia del secondo artista che questa sera animerà il palco del Sanacore Folk Festival. Oggi 10, ancora a provare le casse, vabbè, Radio Plaza, e andiamo avanti, sì, facciamo l'intervista quindi con Sandro Joyer. Ho detto bene Joyer? Vabbè, lo vediamo dopo, okay. vado io, Alexandre Joyer Paganini. Alexandre Joyer Paganini, esatto. Nasce a Parigi nel 1978 da mamma francese e da papà italiano. Viaggia, studia, suona e gira il mondo. Poi la grande scoperta, quella della musica dell'Africa profonda di Boubacar Traoré. Sandro studia ad orecchio il repertorio del cantautore maliano e inizia ad appassionarsi alla musica del West Africa, Salif Keita, Oumou Sangare, Youssou N'Dour, Amadou e Mariam, la mitica rail band della stazione di Bamako che abbiamo ascoltato poco fa, sia nel brano che nel sottofondo. Tra l'altro adesso invece il nostro sottofondo che stiamo ascoltando così è quello Neba Solo, mi sbaglio? Neba Solo. Avete già sentito, questa, questa è la voce sua di voce. Sandro Joyer, già noi ci siamo intrufola nelle studiato nelle nostre vicende. Esatto, ragazzi. Abbiamo studiato per introdurre questa intervista, poi ci fai sapere se abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi diciamo la passione per la musica del West Africa, abbiamo detto, gira e revota. Sandro arriva a Napoli dove nel 2011 inciderà il suo primo album, omaggio proprio all'Africa, e poi da lì una miriade di collaborazioni ed esperienze artistiche sempre diverse e sempre più belle che lo portano fino a Radio Plaza. Radio Plaza, che yeah, non è la prima volta tra l'altro, no, che incontriamo Sandro. La prima cosa però, ora noi dobbiamo capire, abbiamo più o meno detto delle cose su di te, sulla tua vita, sulle tue ispirazioni musicali, l'Africa, il viaggio, le lingue, i dialetti, ci stavi raccontando tra di noi della stazione, magari ci dici, ma soprattutto la prima cosa Sandro, ma come si dice il tuo cognome per favore? Paganini. Paganini è facile. È facile. Paganini è facile. Joyeux. Eccolo. Vedi. Joyeux. Ah, c'è anche tra l'altro è proprio la napoletana, joyeux. Allora adesso è facile. Non sbaglieremo più da adesso, non improvviseremo sul tuo nuovo cognome. L'abbiamo detto in tutti i modi, però dicevamo Sandro, abbiamo detto qualcosa di sbagliato nella presentazione che ti abbiamo fatto. Manca, vuoi aggiungere qualcosa? Ci vuoi aggiungere quello che ci raccontavi rispetto alla stazione? Perché quel brano che abbiamo ascoltato, dove ancora cantava Salif Keita in questa band, poi Salif è andato dagli ambasciatori del Mali, che era la band concorrente, e praticamente che succedeva che all'epoca c'era un regime autoritario, dittatoriale, quindi diciamo che ogni dittatore si portava la sua scia di musicisti affidati. Infatti Boubacar Traoré era molto famoso nel 62-63, poi quando c'è stato il cambio di regime è sparito per 20 anni, finché non lo ha riscoperto un produttore francese che gli ha fatto fare altri dischi. E invece l'altro giorno stavo sentendo la storia di un brano molto famoso di Salif Keita che hanno registrato in esilio in Costa d'Avorio, perché comunque li hanno avvisati che stavano venendo a prenderli di notte per arrestarli, il nuovo regime, e quindi sono fuggiti di notte questi, hanno attraversato la frontiera e poi sono riusciti a continuare la carriera in Costa d'Avorio, che ogni tanto là c'è qualche tasca un po' più libera, con magari una transizione democratica, con elezioni, e poi 5 anni dopo di nuovo colpo di Stato. Infatti stavo in Burkina Faso a novembre, sono partito il 9, tornato in Italia e già il 21 c'era il primo colpo di Stato. Quindi questa è una delle cose, i tuoi viaggi, i viaggi in giro per Africa, immagino, ma non solo, per cercare ispirazioni, per il tuo interesse per le lingue, i dialetti o i linguaggi delle popolazioni locali. Sì, e poi cioè, comunque è una malattia grave, cioè il mal d'Africa, ragazzi, esiste davvero, perché una volta sono stato pure male fisicamente, un po' malatino con l'antimalarico, queste cose, però se mi dicono domani vieni io ci torno subito, anche se devo stare male non mi importa. E ci torni per fare musica, per sentire musica, per suonare, registrare, fare qualche videoclip, conoscere canzoni nuove, etnie nuove, dialetti nuovi. Quindi molta della tua musica prende ispirazione da questi viaggi. Esatto. Inizio tutto con il Marocco, che è un paese culturalmente con la musica molto molto vario e molto con decine di tradizioni, di etnie tradizionali, tipo la musica berbera, la musica gnawa. E all'inizio, prima del Mali, sono partito tanto in Marocco per studiare questa musica qua. Questa musica che sentiremo stasera è un mix di tutti i viaggi. Thank you. allora, tra le centinaia, migliaia di cose che fai, che hai fatto, che farai, sicuramente sei stato nelle baraccopoli, nelle tendopoli, hai tenuto concerti a sostegno dei migranti in situazioni di emergenza. Ma quindi allora poi noi ci domandiamo, ma stasera che ci fai qui? Ah, io venire alla chiamata di Francesco Evangelista è sempre un piacere, lo sai, non è la prima volta. È la chiamata di un evangelista, no? Capito, per un miscredente come, come me. Te, come noi, tra l'altro. Scherzi a parte, sei su Radio Plaza. Yeah. Yes, abbiamo già detto tanto, ma di viaggi, quindi anche questa atmosfera, questa musica di sottofondo mette un po' serenità, no? A me l'Africa mi rilassa in un modo incredibile finché non ci vado. Poi è complicato, è complicato. Fa caldo, fa caldo. Però volevamo sapere, diciamo, facciamo quattro chiacchiere sullo spettacolo di stasera. E in generale, mi chiedo, che cosa stai complottando attualmente? Vabbè, sto lavorando al prossimo disco, che alcuni brani li ho registrato a Dakar, in Senegal, con musicisti di alto livello senegalese. Poi altre tracce in Mali, altre tracce in Burkina, sto facendo un... altre tracce a Napoli, che pure qua siamo in terra africana fondamentalmente. E fra l'altro stasera abbiamo un ospite di grande marca, che è Luca Rossi, con il tamburello, e faremo, l'abbiamo invitato ad hoc, si dice ad hoc. Ad hoc. Ad hoc. Espressamente. Non il capitano ad hoc di quelli di Totò. Quindi dicevi, stasera farai un mix di tutti i tuoi più grandi pezzi. Ah vabbè, faremo un... diciamo un grande viaggio insieme. Ah, non vediamo l'ora, Sandro, non vediamo l'ora di viaggiare con te, con la tua musica, con tutte le persone che saranno con te sul palco. Grazie mille per essere stato di nuovo a Radio Plaza. Grazie. Ringraziamo ancora. Sandro Joyeux. Ok, neanche l'ho imparato. E... grazie ancora Sandro e buona serata. Dici. Devi pensare al foggiano. Ma facciamo la loca. Con questa mi faccio, vada, com'è, com'è? Ripetila quella della testa. Facciamo la loca. Perfetto. Grazie ancora Sandro e buon ascolto su Radio Plaza. Grazie a voi, ciao. Diretta Radio Plaza. Wow. We'll be right back. da na na na na na da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Festa, farina e forca sono le cinghie di trasmissione della macchina spettacolo, forme egemoniche di ogni dominazione che si pretende democratica insieme suo rovesciamento. La festa è uno strumento della politica come la farina e la forca lo sono della persuasione. Insieme dividono il mondo del lecito dallo spazio labirintico dell'avventura. Per lo spettatore avido la musica nella sua apparenza è soprattutto l'avanguardia del carnevale, ma il carnevale è ben altro, è il tempo della diversità, come scrive Alessandro Fontana, fatta festa della deliberazione ludica, del timore fatto spettacolo. Ed è anche questa drammaticamente il suo contrario, dal combattimento fra carnevale e quaresima di Bruegel il Vecchio, a White, a Woodstock, ai Lambri Italiani, passando per la manzoniana storia della colonna infame, la festa tenta disperatamente di aprirsi uno spazio a cui può solo alludere, uno spazio confuso e sempre immaginario che non può fare suo, lo spazio della scena reale, lo spazio politico del sociale, lo spazio del personale. Ecco, siamo su questo palco e suoniamo per voi, ma facciamo nostro il grido di avvertimento di Rousseau nell'Elettra d'Alembert. No, non sono queste le feste del popolo. Il popolo deve essere lo spettatore di se stesso, deve essere attore e vedersi e amarsi negli altri. Radio Plaza, qui il 10 luglio 2022, siamo in Piazza Borsillo a Scisciano per il Sanacore Folk Festival. C'era qualcosa che dovevo rispettare? Sì, ma non fa niente. Comunque abbiamo ascoltato, mo perdo un po' di tempo così recupero quel... bene, sì, si capisce? No, si capisce. Panin. Pacchianella Tuttaiano, questo era il brano che abbiamo ascoltato adesso della nuova compagnia di canto popolare, dall'album proprio omonimo, Nuova Compagnia di Canto Popolare dell'anno 1972. Ringraziamo Roberto De Simone e tutta la Nuova Compagnia di Canto Popolare per questa bellissima avventura musicale nella tradizione napoletana, campana e in generale della musica popolare. E quante volte questo brano l'abbiamo sentito nelle feste? Feste, farina e forca, la ricetta borbonica inventata per tenere a bada il popolo napoletano e distoglierlo da tentazioni rivoluzionarie. È stata in qualche modo rispolverata questa ricetta e forse non è mai stata abbandonata. Con la farina, l'assistenzialismo e la deresponsabilizzazione si nascondono i problemi e si abbatte la dignità. Con la forca aumentano le paure, le discriminazioni e l'autorità e si perdono ampi spazi di libertà. E poi le feste, gli occhi che si abbaiano, le coscienze che si assopiscono e la rivoluzione che dorme. E lo spreco di risorse pubbliche è palese. Milioni di euro buttati per eventi inutili, G7, maledetti G8, G20, strutture sportive abbandonate dopo le Olimpiadi invernali, Olimpiadi estive, e si pensi soprattutto a quella galassia di piccole ma molto danarose iniziative locali, più o meno piccole, che a contarle ci si perde. Raduni di spazzacamini, tornei di tennis, glorificazioni di improbabili beati e santi e naturalmente la pappatoia delle sagre e feste legate ai prodotti tipici. E niente di male se quella del debito pubblico non fosse una tragedia, ma inanellati uno per uno per questa sconfinata serie di piccoli stanziamenti apparentemente minori, i soldi prelevati dai bilanci a fine anno diventano milioni e milioni di euro. Sì, ne ha parlato l'Espresso in una inchiesta fatta qualche anno fa, che ha fatto un po' le pulci alle amministrazioni locali e a tutta questa appunto miriade di iniziative ed eventi molto molto costosi. Poi alla fine la crisi imperversa, ma le sovvenzioni facili continuano a correre. Quanto spendiamo come comunità per questi eventi? Ce lo chiediamo, ma non sarà certo Radio Plaza a dare risposte. No, Radio Plaza non dà risposte, ma coltiviamo il dubbio che queste feste e festicciole, sagre e sagrette, festivaloni e festivalini abbiano in sostanza la funzione di distrarre dalla realtà del quotidiano e di creare consenso che poi si traduce spesso in voti. La chiamano democrazia, ma è mera demagogia. Ecco, li sentiamo. Calma, calma, compagni, signori, amici, fratelli, tutti. Un panino con la salsiccia, quattro fusilli al cinghiale e futili fuochi d'artificio e li teniamo tutti a bada. E dalla sconfinata serie facciamo qualche esempio, così per non dimenticare. Sì, Regione Valle d'Aosta, 12.000 euro per una spedizione subacquea in Bolivia. Regione Piemonte, 75.000 euro per Tal Lorenzo del Boca per l'individuazione delle scelte strategiche migliori per festeggiare l'unità d'Italia. Da notare però che Del Boca è l'autore di una controstoria del risorgimento dal titolo Indietro Savoia. In Lombardia si spendono 400.000 euro per il settimanale della giunta regionale, 20.000 euro per la festa dei carabinieri e 30.000 euro per festeggiare tre beati. In Trentino 282.000 euro spesi per i costumi di bande e corri. Nel Lazio 2 milioni di euro per la rievocazione storica della battaglia di Lepanto e la sagra del carciofo. Napoli finanzia manifestazioni come Arriva la Befana, Innamorarsi a Napoli e un premio di architettura a cura di Francesco Cesaro, figlio di Luigi, presidente di provincia. In Puglia si spendono 4.000 euro per il culto di Sant'Oronzo a Lecce. In Sicilia 11 milioni per sostenere sport come subbuteo, kumite, karate, twirling, biliardo e bocciofile varie e poi altri soldi a tornei di briscola, selezioni di miss provinciali e convegni impegnativi per valorizzare gli animali. Ed è capitato per esempio all'asino, no? Sì, protagonista ignaro di un incontro nel comune delle Madonie. E questo è in piccolo. Ora proponiamo a tutti, fatevi due conti di sola andata. Questa è Radio Plaza. Io sono Brusco, quelli di Radio Plaza secondo me li dovrebbero arrestare. Around in my hometown, they're trying to track me. Non dico altro, Bob Marley dall'album Burning del 1973. Questo è il brano che abbiamo ascoltato su Radio Plaza, era I Shot the Sheriff. E sotto alle nostre voci stiamo ascoltando gli Inti Illimani con Il mercato del testaccio. Vorrei far sorridere quelli che fanno un lavoro molto profondo nelle puntate di Radio Plaza, gente che non si vede, gente che non parla ma conclude molto, anche autoritaria a volte, va bene. E quindi c'è gente che si fa delle domande e qualcuno a volte si dà anche delle risposte. E la verità? No, noi non possiamo garantirla, ma il dubbio sì, l'abbiamo detto già prima. E allora facciamoci delle domande, ma su che cosa? Questa è Radio Plaza e ci facciamo delle domande sul cibo, per esempio. E ci siamo mai almeno chiesti da dove viene quello che mangiamo? chi lo ha coltivato o prodotto e quali passaggi lo hanno direzionato poi sulla nostra tavola. Mangiare è sicuramente un bisogno primario, si sa, la salute psicofisica dipende in buona parte da quello che mangiamo, ma si sa anche che molte malattie, potremmo dire pandemiche, derivano dalla scarsa qualità del cibo. Parliamo a livello mondiale chiaramente, e non tralasciando sfruttamento del lavoro, speculazioni finanziarie, inquinamento ambientale, tutti i temi legati al cibo che ogni giorno prendiamo dagli scaffali di un banale supermercato. Sì, potremmo cominciare a chiedercelo, e allora si può produrre, distribuire e consumare cibo di qualità e che non contribuisca al disastro sociale e ambientale? Potremmo cominciare a chiedercelo quando facciamo la spesa, per esempio. Domande legittime come quelle che andremo immediatamente a porre al nostro prossimo ospite, che presenta Anna, che è già seduto qui al tavolo con noi, è Giulio. Giulio, ok. Giulio, fosse francese. No, volevi continuare in questa... Volevo andare su questa falsa riga François, che... Allora, mi mette un po' in ansia il francese. Perché non lo sai parlare, è facile. Perché parlo così. Giulio è stato in Francia. Possiamo cambiare argomento così? No. Giulio, okay. Parla al microfono così ti sentiamo. Sì. Giulio parla in francese. No, torniamo alle nostre domande serie, dai. Allora Giulio, ti chiediamo, innanzitutto ti ringraziamo per essere con noi a Radio Plaza e ti chiediamo a che punto siamo rispetto all'accesso al cibo di qualità per tutte le persone, perché è così importante e quali sono le possibili alternative, le azioni utili per raggiungere l'obiettivo. Rispetto all'accesso al cibo di qualità, fortunatamente sta diventando sempre più diffuso due iniziative. Una che è un tipo di iniziative che vengono dal basso. Sono ormai più di 10 anni che esistono movimenti per il cibo che hanno iniziato a praticare mercati di prossimità, collegamenti tra l'agricoltura contadina o neocontadina e il consumo critico, il consumo responsabile. È un altro tipo di movimento che in parte ne è risposta e speculare da parte della grande distribuzione, dei cosiddetti padroni del cibo, dei circuiti ufficiali che gli hanno visto nella qualità del cibo una frontiera di accumulazione e hanno investito sempre di più su questo. Negli ultimi 10 anni chiunque frequenta un supermercato si è reso conto del proliferare di etichette di prodotti locali, made in Italy, biologico, che va di pari passo con l'aumento del costo del cibo di qualità e anche un rischio profondissimo, cioè che il cibo di qualità diventi di nicchia e una stratificazione anche classista dei consumi alimentari. Un po' esempio calzante può essere il mondo della pizza per noi che siamo a Napoli, alimento popolare che ormai costa tantissimo quando si mangia di qualità e ha l'effetto che le pizze a basso costo, accessibili a tutti, continuano a esistere ma sono prodotti con il peggio dei prodotti alimentari di massa. E quindi sorge la questione di dove siamo rispetto all'accesso al cibo di qualità da parte di tutti, no? Della popolazione, degli strati popolari, della popolazione, per me, di chi mi sta a cuore, sta molto più a cuore che siano gli strati popolari ad avere accesso al cibo di qualità. E da questo punto di vista invece stiamo abbastanza indietro, molto. I dati che circolano nei rapporti specialistici parlano di una povertà alimentare che è un fenomeno che incide sul 20%, più del 20% della popolazione italiana, e in più c'è da segnalare che la povertà alimentare generalmente è intesa come sulla base di indicatori puramente economici, cioè è considerato povero dal punto di vista alimentare chi ha una capacità di spesa pro capite inferiore a 160 euro al mese. Se invece consideriamo la qualità del cibo anche da altri punti di vista, quindi ciò che è accettabile, ciò che non è legato allo sfruttamento della natura o del lavoro, ovviamente la percentuale sarebbe molto più alta, no? Così come il cibo non nutriente o il cibo spazzatura, che è il cibo invece più economico e quindi quello più consumato soprattutto dalle classi popolari. rispetto all'accesso a questo tipo, cioè al cibo di qualità, queste classi popolari sono quelle che più sono estranee ai circuiti alternativi del cibo. Io lo dico da attivista di questo mondo, un esempio concreto è forse banale in un posto come Napoli, che è il luogo dove c'è la maggiore incidenza di famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza tra le famiglie povere in modo assoluto o relativo, è che è veramente molto raro trovare la possibilità di pagare con la carta del reddito di cittadinanza in un mercato di prossimità, per non parlare di quelli più radicali che spesso oppongono anche la misura sulla base di l'opposizione a un mero assistenzialismo. E quindi da questo punto di vista, purtroppo, due mondi che sono fatti un po' dalle classi popolari dei produttori in agricoltura, no? Cioè i contadini, i piccoli produttori, chi probabilmente ha un basso reddito anche esercitando e lavorando come autonomo in agricoltura, e i consumatori, lavoratori e lavoratrici, sono due mondi a parte, e spesso si scontrano questi due mondi invece di trovare modi creativi per provare a incontrarsi. Quindi diciamo che un cibo di qualità lo possiamo definire come un cibo diciamo che non ha additivi, che non ha elementi chimici all'interno, coltivato nel rispetto del lavoro e della salute dell'uomo, e che non distrugga l'ambiente. Come definizione sono entrata a gamba tesa. Non so quante persone potrebbero non essere d'accordo con un tipo di definizione simile. Poi la cosa peculiare è che cosa è cibo di qualità. In realtà è una definizione che dipende dall'educazione alimentare che ognuno ha, dal sistema valoriale che ognuno ha. Io faccio parte di una rete agroecologica che riguarda Napoli e provincia, e si chiama Rivolterra. Rivolterra, non dimenticate questo nome, Rivolterra. E si estende anche oltre la provincia di Napoli, e ci abbiamo messo 12 mesi a definire quali erano i principi base del cibo di qualità per noi, però più o meno sono quelli che tu hai elencato. A me sta molto a cuore, per esempio, la questione della nutrizione, della salute del cibo è generalmente toccata da molti, così come quella ecologica o ambientale. A me personalmente sta molto a cuore farci entrare la qualità delle condizioni di chi ci lavora nel cibo, ed è una delle cose più invisibili sia per gli agricoltori che per i lavoratori salariati e braccianti. Giulio, quindi per voler andare verso la conclusione di questo tuo piacevolissimo intervento qui in radio, e invitandoti poi per altri interventi successivi, mi domando quali sono le azioni utili, cosa si può fare per andare verso il cibo di qualità per tutte le persone? Allora, confesso che mi ero preparato 4 pagine di azioni possibili. La verità è che dipende un po' dal tipo di azione politica che si immagina. Proprio qualche giorno fa ero a Roma e mi sono scontrato con una iniziativa che secondo me ha un enorme potenziale proprio da questo punto di vista. La Food Policy Council, un consiglio, una consulta alimentare che è nata a Roma, costituita su stimolo di una serie di movimenti e associazioni che si occupano di cibo, e ha un effetto enorme perché si rivolge in realtà, cioè ha l'ambizione di provare a agire come consulente della politica di alimentare, nel senso anche di approvvigionamento alimentare, quindi va ad incidere sulle mense pubbliche scolastiche, le mense degli asili nidi, le mense dei dipendenti comunali. Immaginate se questo venisse esteso alle mense delle aziende private tramite l'azione dei sindacati. Definire là dei principi per l'accesso a un cibo di qualità come cibo prossimo, senza sfruttamento della natura, avrebbe un impatto dirompente per arrivare agli strati popolari, che spesso sono lavoratori, e alle vittime più inconsapevoli della povertà alimentare, cioè i minori e i giovani, che invece spesso consumano il pasto a mensa quando sono in età scolastica, però richiede la costruzione di movimento. Poi c'è un altro spettro di azioni che invece è più in un ambito di azione autonoma dei cittadini, cioè per quello che è possibile combinare all'azione che nasce intorno a reti agroecologiche fatte da piccoli produttori e consumatori critici dei gas, un'attenzione a un'azione rispetto alla questione dell'accesso da parte delle classi popolari e anche una rivendicazione rispetto ai redditi, che è una cosa spesso fuori dallo spettro di ciò che fa chi è sensibile alla tematica del cibo, ma spesso è semplicemente l'elemento della mancanza di potere di acquisto che determina che tipo di cibo si consuma, al di là di ogni opzione culturale o morale. Consumo. Diciamo così, banalmente, no, Giulio, non so se siamo d'accordo da questo punto di vista, che negli anni, come è cambiata la società, è venuto sempre meno quel rapporto che diciamo in epoche antiche, in società un po' più agricole, è venuto meno quel rapporto tra produttore e consumatore, no? Gli intermediari sono sempre aumentati tra il produttore e il consumatore, e le dinamiche che hanno portato poi all'aumento di queste intermediazioni spinge poi il capitalismo creare tutta una serie di intermediari che appunto hanno allontanato il consumatore dal produttore. Il consumatore è diventato semplicemente un cliente, quindi che basta che compri e abbiamo finito il tempo. Ok, allora ci ascoltiamo questo brano dal produttore, ringraziamo Giulio per essere intervenuto qua, per aver detto le cose che ha detto, perché molto molto interessante. Questo è un argomento che bisognerebbe approfondire anche a livello parrocchiale, secondo il mio punto di vista, dove si mangia male anche in queste festicciole e festicciole a cui partecipiamo in piazza durante l'estate, le varie sagre, lì si mangia malissimo, e quindi anche stasera. Quindi ci ascoltiamo questo brano dal produttore al consumatore, il canzoniere delle lame, dall'album Il prezzo del mondo, canti politici satirici sul caro vita di Fausto Amodei del 1975, per restare attuali. Sono mezzatro e proprio l'altro ieri ho comperato da dei verdurieri una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Se le prese il bottegaio che se ne è tenuto un paio per avermi procurato niente affatto a buon mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Se le prese un po' con l'IVA, tassa che è governativa e che ha la prerogativa singolare ed esclusiva di aumentare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio per avermi procurato niente affatto a buon mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Han dovuto in parte andare all'industria alimentare che gli aveva accaparrati sti fagioli rinomati per fornirli scatolati e per bene etichettati all'agente commerciale che pagati in percentuale sulla merce e il materiale che su scala regionale. E gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che è governativa e che ha la prerogativa di aumentare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio per avermi procurato niente affatto a buon mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Una quota non ridicola, vanno mazzi ortofrutticola che accaparra e che procura tutta quanta la verdura all'industria alimentare cui compete di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa l'IVA e che avendo accaparrati sti fagioli rinomati dopo averli scatolati li fornisce etichettati all'agente commerciale che pagati in percentuale sulla merce e il materiale di su scala regionale. E gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che è governativa e che ha la prerogativa di aumentare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio per avermi procurato niente affatto a buon mercato, una scatoletta di fagioli campagnoli. quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Se le prese niente meno che il padrone del terreno sopra il quale sono nati sti fagioli disgraziati, depurati e naturale di una quota percentuale. Che misura non ridicola, vanna ma fiorto frutticola, che accaparra e che procura tutta quanta la verdura all'industria alimentare, cui compete di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa viva e che avendo accaparrati sti fagioli rinomati, dopo averli scatolati, li fornisce etichettati all'agente commerciale che pagati in percentuale sulla merce il materiale che su scala regionale. E gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che è governativa e che ha la prerogativa di aumentare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio il nostro bottegaio che se ne è tenuto un paio per avermi procurato, gli ti ha fatto a buon mercato una scatoletta di fagioli campagnoli. Quelle lire che mi sono spese, chissà mai chi se le sarà prese. Non le ha prese il sottoscritto, anche se ne avrei diritto, dato che in fondo vivo sui fagioli che coltivo, perché io sono un mezzadro, ma sto sporco mondo ladro mi ha pagato sempre solo, dandomi qualche fagiolo. Ma le ha prese niente meno che il padrone del terreno sopra il quale sono nati sti fagioli disgraziati, depurati e naturale di una quota percentuale. Che misura non ridicola, valla ma fiorto frutticola, che accaparra e che procura tutta quanta la verdura all'industria alimentare, cui conviene di pagare quella briciola aggiuntiva che si è ancora presa viva e che avendo accaparrati sti fagioli rinomati, dopo averli scatolati li fornisce etichettati all'agente commerciale che pagati in percentuale sulla merce materiale che su scala regionale e gli vende in esclusiva dopo aver pagato l'IVA, tassa che è governativa e che ha la prerogativa di aumentare ogni passaggio che la merce fa nel viaggio per raggiungere il grossista che fornisce la provvista. Proprio al nostro bottegaio che se ne è tenute un paio per avermi procurato niente affatto a buon mercato. Caro! Una scatoletta di fagioli campagnoli. Le tre messe là dove stava, dove stavi montando? La situazione non è stabile. Oh! Se cade, fate tanto male. Vai, vieni, vieni, vieni. Non sballare, non sballare. Allora, piano, piano, attenzione. Ok. Voglio vedere. Vai là, vai, Carlo. Voglio vedere, non voglio vedere. Ok, a terra. Perché è di giovereghisse? Ci si beve. La benzina, va. Quindi bruciate qui. Dopo qui. No, ho fatto la moto del camera, mi sono proprio scuro. Dopo qui, ci siamo i lavori, ma non è bello. Oggi mantenete la scala? No! Sono Rosaria, sono un attivista dell'associazione Abbasta Nova Coine. E diciamo che io comunque faccio parte anche del SAI, io sono un'operatrice del SAI. E nel festival io adesso, quest'anno diciamo così, è la prima volta che partecipo attivamente. Diciamo il perché è perché io faccio parte dell'associazione, sono una volontaria e quindi è una cosa naturale partecipare e dare una mano quando serve. Sono Manuel, sono alla cassa, quindi prendo i soldi delle persone che vogliono da bere o da mangiare. e sono qui perché sono un vecchio membro dell'associazione e mi piace durante il Sanacore l'ambiente che c'è, mi piace il fatto che è un momento di condivisione, un momento in cui siamo tutti insieme e speriamo di regalare 3 giorni di spensieratezza alle persone. Ciao, sono Rossella e questa sera sono qui con il gruppo di Zi Riccardo, che è un gruppo folk e noi cantiamo e balliamo la Tammurriata. Io sono contenta di essere in questo posto, ho visto tanta gente e mi fa piacere anche che queste iniziative partano soprattutto dai giovani, è una cosa molto molto positiva, mi fa piacere. Sono Aziz, sono del Marocco, residente a Mariano. Sono venuto stasera qua al festival perché mi è arrivata la voce da amici tramite amici e sono venuto un po' a dare un'occhiata. Sono qua perché mi interessa l'idea del festival e la trovo un momento bello di aggregazione dopo tutto questo brutto tempo passato con il Covid. Ma a chi è dedicata questa edizione del Sanacore? Beh, perché l'edizione siamo... del Sanacore ovviamente è dedicata a lui, all'unico, inimitabile e eterno Sabino, a cui invito tutti a fare un grande applauso a Sabino Romano. Ciao, sono Lucia, una volontaria di Yabasta. Siamo qui questa sera perché Yabasta ci ha incaricato di essere lo sponsor ufficiale del Sanacore Festo. Noi ci occuperemo di tutta la cucina, ciò che concerne tutta la cucina. Perché sono qui? Perché Yabasta è una famiglia, Yabasta e Novo Kainé sono una famiglia e io sento di appartenere a questa famiglia e sono la mia famiglia. Mi chiamo Carlo, mi trovo qui al Sanacore. Mi trovo qui perché mi interessa la situazione, devo suonare con un gruppo, io insieme ad Ayub e Domenico Raia. E in seguito si è aggiunto anche Alessio. Io faccio rap, mi chiamo in arte G. Carletto e farò dei pezzi. Il mio nome è Angelica, sono una studentessa all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e ho scelto di partecipare in primis perché vorrei dare comunque un contributo al mio paese e farmi conoscere, anche perché comunque essendo di Cisciano ci tenevo a partecipare a questo evento. Io principalmente faccio appunto dipingo e diciamo che il mio stile pittorico è tra l'astratto e un figurativo un po' surreale, diciamo così, quindi mi sono ispirata a diversi artisti e niente, spero comunque di riuscire a dare un contributo a questo paese anche a livello artistico, perché penso che Cisciano sotto certi aspetti sia un paese che merita molto. Grazie per la giacola, ma non mi dà base, non mi vedo l'ora di questo rotta male, per la gente, la mancata di una famiglia si sente, l'anima da tanti limitati da male, però questo non mi ricordo, quando mi cala, ma lo fate fammi che aumento, non è da pensare dal lento. Thank you. Radio Plaza. E ci siamo, siamo... Ma è chiaro a tutti, Radio Plaza. È chiaro, sì, ormai chiaro, è chiaro, sì. Però ripetuta, com'era, com'è che dicevano quelli là? No, meglio non dire l'inizio soprattutto di quell'altra parola, che è meglio evitare, allora, nel calciomercato. E allora, il momento di altri ospiti al tavolo di Radio Plaza al Sanacore Folk Festival 2022. Abbiamo al tavolo Ya Basta e Nova Koinè, che sono le organizzazioni che appunto mettono in piedi questa iniziativa. Da qualche anno ormai, e da qualche anno stanno pure collaborando tra di loro. Abbiamo al nostro tavolo due rappresentanti, sia di Ya Basta e di Nova Koinè. E allora le andiamo, salutiamo. Sono Anita per Ya Basta e Antonella per Nova Koinè. Buonasera e grazie per essere con noi a Radio Plaza stasera. Cominciamo subito, così per rompere il ghiaccio. Chiedo prima ad Anita, va così perché me la trovo prima davanti sulla in ordine scaletta. Alfabetico. Anita viene prima di Antonella. E allora, chi sei e che cosa fai? Ciao a tutti, io sono Anita Romano e sono una psicologa del progetto SAI, nonché una volontaria dell'associazione Ya Basta da ormai 10 anni. E niente, passo la parola. Romano è un cognome prodotto tipico del territorio, giusto? Sì, prodotto tipico, sì. Io sono la figlia di Sabino Romano, che quest'anno insomma qui abbiamo dedicato il festival. E noi non lo sapevamo questo. Noi non lo sapevamo e ci fa piacere fare ancora un applauso. Facciamo un applauso a Sabino momento. Romano. Grazie. Io farei un applauso, posso fare le solite mie improvvisazioni, farei un applauso anche alla Piazza Rossa. Sì. Perché a lui sarebbe piaciuta tantissimo. Esatto, ecco, a lui piace. Io parlo al presente, sì, va sì. Bene? Per te? Ok. Certo. Sì, a Sabino piace moltissimo la Piazza Rossa. E ad Antonella piace questa Piazza Rossa? Sì, Antonella, per Nova Koinè. Mi piace tantissimo, io sono Antonella, volontaria dell'associazione Nova Koinè e insegnante di italiano del progetto SAI. E quindi, allora, stasera siete al tavolo con noi in veste di rappresentanti delle due associazioni che, come diceva Carmine, ormai da tempo collaborano, insomma, state insieme, fate un sacco di cose insieme. Cosa fate insieme come associazione? Insieme come associazione da quest'anno facciamo la scuola di italiano e insomma collaboriamo proprio per quasi tutte le attività. Facciamo diverse attività, abbiamo il dopo scuola sociale, la scuola di italiano appunto. Scuola di italiano per stranieri, giusto? Scuola di italiano per stranieri, sì. Anche se a volte la scuola di italiano per italiani non sarebbe male. No, perché la scuola di italiano per italiani non serve, è evidente. C'è stato un periodo in cui abbiamo pensato di creare dei corsi appositi di italiano per italiani, perché a volte ci sono persone, magari adulte, che non hanno avuto l'opportunità di studiare e quindi vorrebbero anche ragazzi prendere la terza media e noi possiamo comunque aiutarli. Stasera in particolare siamo allo stand dove vendiamo prodotti, che un po' di merchandise del festival e anche prodotti che abbiamo realizzato insieme agli ospiti del progetto SAI, quindi se non l'avete fatto comprate qualcosa e sosteneteci. Questa è una pubblicità che noi non abbiamo finanziato e che nessuno ci paga per farla, quindi il merchandise è made in China, giusto? No. È made in Grafica Amato, che con Ciccio che ha fatto le grafiche. Amato. E tutti i prodotti che abbiamo realizzato con gli ospiti sono sostanzialmente cose che abbiamo riciclato, tipo bottiglie di vetro. Ok, partecipate quindi tutti alla raccolta fondi per sostenere le attività delle due associazioni, giusto? O per finanziare il festival? Per sostenere le attività delle associazioni, perché siamo ancora un'associazione che si autofinanzia in qualche modo, quindi per questo invitiamo tutti ad acquistare simbolicamente un gadget del Sanacore. Bene, andiamo avanti con il programma? E perché no? Radio Plaza. Thank you. Ritornati su Radio Plaza, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Noi ci stiamo ascoltando qui dalla piazza e qualcuno ci ascolta online, speriamo, da tutto il mondo. Possiamo collegarci a collettivoutopia.noblogs.org, dove c'è lo streaming in diretta sia della puntata speciale di Radio Plaza qui dal festival, sia del concerto che ci sarà tra un poco, dopo di noi. Al tavolo abbiamo ancora con noi Anita di Abbassa e Antonella di Nova Conè. Prima di continuare a parlare con loro, però, un bel brano musicale, Carmine. Ah, non era questo il brano musicale? Ok. Va bene. E allora si balla. Sanacore Folk Festival, si balla. E noi, anche noi, balliamo qui a Radio Plaza e con Lionel Leo Hampton. Lo conosci? Certo che lo conosco. Certo, ma figuratevi, uno dei più grandi artisti dello swing statunitense, vibrafonista e percussionista, di cui consigliamo a tutti comunque l'ascolto delle sue vulcaniche performance live. Ci andiamo ad ascoltare. Qua io ho un po' di difficoltà con l'inglese, vogliamo fare qualcosa? Ti aiuto io, ci andiamo ad ascoltare in una spiziosa versione elettronica prodotta nel 2012 il brano I Don't Mean I Think If I End That Swing di Lionel Hampton dall'album The Electro Swing Revolution, volume 3 del 2012. E perché no? Radio Plaza! E buon ascolto! Wow! Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Lupakis, responsabile educazione di Open Arms Italia. Open Arms è una ONG che si occupa e preoccupa di salvare le persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale, persone che fuggono da guerre, persecuzioni e povertà e che intraprendono questo viaggio molto pericoloso a bordo di imbarcazioni fatiscenti e mettono a rischio la loro vita pur di raggiungere l'Europa, la terra di diritti, futuro, democrazia, libertà, quindi cercano un futuro migliore. Adesso nel Mar Mediterraneo centrale purtroppo ci sono solo le ONG che rimangono l'unico presidio di umanità in quel mare che è diventato la frontiera più pericolosa al mondo. non c'è nessun assetto navale governativo né italiano né tantomeno europeo, e quello che ci ritroviamo a fare appunto è prendersi carico di una situazione, di una drammatica situazione migratoria che l'Europa continua a non voler vedere e a non voler prendere in considerazione. Saremo in quel tratto di mare finché anche solo una vita sarà in pericolo. E se volete seguirci e sapere cosa facciamo e come poter contribuire, potete visitare il nostro sito www.openarms.it. Abbiamo sempre bisogno di volontarie e volontari che possano, diciamo, aiutarci e contribuire alla nostra missione. Siamo qua oggi al Festival Zanacore Folk Festival. Presentiamo il nostro film Open Arms, la legge del mare, un film di Marcel Barrena, che racconta il primo anno di vita della nostra ONG, quindi come siamo nati, perché siamo nati e dove abbiamo operato nel primo anno di vita appunto della nostra ONG. Un film bello, vero, che racconta una storia vera che vi consiglio di vedere, e grazie ancora. Faccio parte di Smolax. Smolax è un'associazione ODB e ci occupiamo principalmente dei diritti umani. Abbiamo uno sportello legale gratuito per tutti, senza distinzione ovviamente di etnia, e tra le tante attività abbiamo anche una scuola gratuita per migranti, una scuola di italiano. Tra le tante attività di Smolax ricordo soprattutto le missioni che facciamo alle porte della Fortezza Europa, dove migliaia di migranti sono bloccati, e andiamo lì per portare supporto, aiuti umanitari. Siamo a Zanacore Folk Festival insieme ai ragazzi di Cisciano che ci hanno invitati. Insieme a loro abbiamo fatto parte anche di altre manifestazioni e speriamo che vada tutto bene. Un bacio a tutti. Ma vengo vignate, ma vengo vignate. Voglio dai coli voi. Io sono Maki Palermo e sono un'attivista del GRIDAS, in particolare di Banda Baleno, che è la prima murga di Napoli, che è nata più di 14 anni fa nel quartiere di Scampia. Il GRIDAS è un'associazione che ha sede presso il centro sociale del Monte Rosa e porta avanti una tradizione di 40 anni, che è quella del carnevale sociale di quartiere, da cui poi sono nati tutti i carnevali sociali di Napoli, e che è cominciata nell'84 con Felice Pignataro. E si basa sostanzialmente su un metodo pedagogico basato sull'attivismo, quindi sul portare avanti insieme alle altre realtà territoriali il concetto di comunità educante. E quindi si lavora in rete, il GRIDAS, la Murga di Banda Baleno, ma anche altre educative territoriali, altre associazioni, portando avanti dei valori quali quelli dell'inclusione, dell'antirazzismo, dell'antifascismo. E la Murga in particolare è un'arte che nasce proprio con un chiaro intento rivoluzionario, perché è un'arte degli schiavi argentini. Nasce come critica, come satira ai padroni, gli stessi ritmi, gli stessi passi, un po' prendono in giro l'oppressore, un po' mettono in scena la liberazione dalle catene, da ogni tipo di oppressione. e siamo stati veramente felici di essere stati invitati come Murga qui al Sanacore Festival, innanzitutto perché abbiamo condiviso l'esperienza con tutto il Frente Campano, quindi con tutte le Murghe, sorelle e compagne con cui andiamo avanti da anni. E, è stato anche bello vedere la partecipazione delle persone, perché appunto la Murga è proprio questo, è inclusione. E in particolare siamo felici di aver portato qui la testimonianza proprio del GRIDAS, poiché l'associazione è sotto processo in quanto ritenuta occupante abusiva del centro sociale. Un immobile che sin dall'inizio, perché faceva parte di un piano di, come dire, di costruzione urbana che prevedeva proprio la presenza di un centro sociale nei quartieri insieme ad aree verdi, e quindi la destinazione d'uso dell'immobile è stata dal primo momento centro sociale, e noi quello abbiamo fatto lì dagli anni 80, un centro sociale, quindi con attività gratuite destinate alla comunità. Ed è proprio questo che veramente fa ridere. Laura. Siamo gli Ars Nova Napoli e vabbè, un gruppo di musica popolare, sono quasi 13 anni che stiamo insieme, a ottobre festeggiamo i 13 anni, suoniamo musica popolare anche con brani inediti, quindi ci rifacciamo alla tradizione, però cerchiamo di andare sempre avanti. A volo una presentazione, al violino e alla tromba il maestro Michelangelo Nusco, chitarra, organetto e voce Gianluca Fusco, alle percussioni Antonino Anastasia, il contrabbasso Bruno Belardi, mandolino e ciarango Vincenzo Racioppi, io fisarmonica e voce Marcello Squillante. Siamo felici di essere oggi qui a Scisciano per la prima volta a questo festival che sembra essere bellissimissimo. Siamo con Radio Plaza, siamo ancora qui a Scisciano, siamo al Sanacore Folk Festival 2022. Abbiamo ascoltato una breve raccolta di voci, di suoni, di musica di queste giornate bellissime che ci sono state qui a Scisciano durante il folk. Erano audio registrati tra il 7, l'8 e il 9 luglio di tutti i vari artisti, artiste, persone che hanno animato il Folk Festival di quest'anno, il Sanacore Folk Festival di quest'anno. E al tavolo con noi ci sono ancora Anita e Antonella in rigoroso ordine alfabetico, a cui vogliamo porre l'ultima domanda di questa bellissima intervista che abbiamo fatto con loro, intervista che i nostri ascoltatori non hanno sentito perché era fuori dalla scena, era oscena appunto, no? Fuori scena. Sì. Allora noi chiediamo a voi, quindi parliamo un po' del Sanacore Folk Festival, per quello che come ve lo siete vissute voi due, e poi se i nostre radioascoltatrici volessero informarsi un po' sulle vostre iniziative, quali sono i vostri contatti e su quali piattaforme potremmo trovarvi, e anche l'indirizzo per venire dal vivo, però dal vero. Perfetto, sì. Allora, quest'anno siamo alla nona edizione del Sanacore Folk Festival, siamo stati un po' fermi a causa del Covid e siamo ripartiti, credo, alla grande. E, diciamo, anche quest'anno, come tutti gli altri anni, nella piazza balliamo musica popolare, non è un caso, quest'anno abbiamo fatto un corso di danze popolari con i nostri migranti in accoglienza nel centro SAI. Il Sanacore, lo dice la parola stessa, no? È sana al cuore, fa bene a noi che tutto l'anno lavoriamo con intensità, ci diamo da fare e lo facciamo sempre con il cuore, e questa festa è un po' una ricompensa, nonostante noi lavoriamo tantissimo e facciamo tre serate non stop, ma non è solo il tre giorni, è tutto quello che c'è prima, però poi arriviamo a questa festa e stiamo bene, siamo insieme, ci divertiamo e ci fa tanto bene al cuore, quindi noi vi inviteremo anche a venire alle prossime edizioni, perché speriamo di non fermare mai questo festival. Terapeutico Sanacore, sì, quindi bene. Molto. Anna, ricordiamo, vuoi dire ancora qualcosa? Ah no, Antonella contatti. Deve parlare, avete tolto la parola ad Antonella. Ah no, aveva un panino in bocca. Sì, infatti grazie ad Anna che ho portato un piattino, altrimenti Francesco avrebbe mangiato il mio panino. Francesco è l'evangelista di cui sì. Sopra. Sì, è lui. Per quanto riguarda i contatti, noi siamo, la nostra sede è a Corso Umberto I 51 Scisciano, e con la scuola di italiano siamo al Castello Ducale, ospiti dalle suore vincenziane, e abbiamo una pagina di Marigliano. Esatto, abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook, rispondiamo generalmente ai direct e, quindi pagina Facebook e Instagram, Yabasta, Koinè o esatto, insieme esatto. No, abbiamo ancora due pagine separate, non per molto perché avevo pensato di unirle, però quindi cerchiamo Yabasta Nova Koinè. Grazie mille ad Anita, grazie mille ad Antonella per essere stata grazie al tavolo a voi. Con noi, buona festa ancora e alla prossima edizione, allora. All'anno prossimo. Questa è Radio Plaza, intermittente ultrafonica al servizio di nessuno. We'll be right back. Anna, commenta tu? Anna, commenta il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Plaza, in diretta su collettivoutopia.noblogs.org e live dalla piazza Borzillo, qui nel parcheggio, anzi Borzillo, durante il Sanacore Folk Festival, questa edizione del 2022, coloratissima, soprattutto molto molto molto molto molto a luci rosse. Non è un commento, ve lo presento. Questo che abbiamo ascoltato era Il Terzo Mondo dall'album A Sangue Freddo del 2009, erano Il Teatro degli Orrori. Sì, un gruppo fantastico dal mio punto di vista. Pochi album e molto intensi, tutti da ascoltare. Purtroppo si è sciolto. Quindi io speriamo li ho in una riunione. Tutti a casa, ve lo dico, li ho ascoltati tutti. Sì, hanno dato un grandissimo contributo al rock mondiale, direi, anzi alla storia del rock mondiale. E non esagero dicendo questa cosa. Vado avanti io? Sì, allora. Vado avanti perché andiamo anche un po' di fretta, siamo in grave ritardo. E allora, Radio Plaza live qui da Cisciano durante il Sanacore Folk Festival. Parliamo di sgomberi, parliamo di centri sociali, parliamo di spazi occupati, parliamo di occupazioni, di liberalizzazioni. Riliberalizzazione, vabbè, parliamo di sgomberi, c'è una ventata di sgomberi in giro per l'Italia, di centri sociali e case occupate, spazi pubblici e privati, diciamo occupati per la legge abusivamente. Milano, ci sono degli esempi a Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma e chissà quanti altri, anche a Napoli, dove pare che sembra che l'approccio durante i governi De Magistris sembrava cambiato, e oggi invece è cambiata l'amministrazione, cambia il vento, cambia il metodo. E vabbè, noi abbiamo sentito, per saperne di più, sì, abbiamo sentito al telefono, perché non è potuto essere qui di persona, un compagno di SCA Officina 99. Loro hanno scelto di non dialogare con le istituzioni. Adesso vi facciamo ascoltare che cosa ci siamo detti con lui. Buon ascolto. Allora, siamo al telefono con un compagno dello SCA di Napoli e parleremo quindi di sgomberi e delle politiche attive adesso a Napoli per gli spazi sociali, soprattutto quelli occupati. La domanda che facciamo al nostro compagno è proprio questa: qual è la situazione attuale in questo momento e quali sono poi le motivazioni per cui il vostro gruppo o i gruppi di cui fai parte poi hanno scelto di non dialogare con le istituzioni? Sì, intanto innanzitutto ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito. Sì, diciamo che proprio negli ultimi tempi ci sono stati dei segnali in città, sia per quanto riguarda la chiusura di indagini e delle denunce per compagni e compagni, per esempio dello spazio di Mezzocanno Occupato, ma anche adesso da poco tempo fa la richiesta di sgombero per lo Sgarrupato, uno spazio dove si svolgono attività per i giovani. Diciamo che comunque in qualche modo questa tensione segna un po' il cambio di amministrazione, non che in sé per noi le amministrazioni possono essere più o meno buone, ma in generale comunque fanno quello che fanno le amministrazioni, cioè tentare di neutralizzare di qualsiasi esperienza di autogestione che non risponda appunto alle logiche del profitto, alle logiche del guadagno. Questi sono poi alla fine gli spazi occupati, autogestiti, tutte in generale le pratiche delle realtà di base, delle organizzazioni politiche di base. In realtà questa tensione verso gli sgomberi è una corrente che vediamo già da un po' di tempo anche in altre città italiane. Penso da poco è stata, ad esempio a Roma, è stata sgomberata la laboratorio ecologica Berta Caseres, e in qualche modo magari negli ultimi 10 anni, forse 10-15 anni, Napoli è stata un po', che visto una relativa tranquillità per quanto riguarda questo, intendiamoci. Perché poi alla fine, non so, gli sfratti comunque a Napoli ci sono ogni anno, indipendentemente dal colore di qualsiasi amministrazione. per noi comunque è sempre stato importante salvaguardare il valore delle esperienze occupate e delle esperienze autogestite, proprio per questo, perché sono esperienze dove si pratica controcultura, dove si costruiscono percorsi di lotta, percorsi politici e dove soprattutto tutto quello che viene fatto è libero da logiche di profitto. E oggi a Napoli questa cosa non è una cosa da poco, se consideriamo che questa città ormai, soprattutto il centro antico, è praticamente diventato una vetrina per il turismo, dove si fanno tantissimi soldi dentro il settore della ristorazione, dove però dall'altro lato chi lavora nel settore della ristorazione vede paghe da fame da 3-4 euro l'ora. Allora per me è importante salvaguardare questi spazi come spazi di auto-organizzazione, spazi di organizzazione totalmente orizzontale, dove tutto avviene attraverso la discussione assembleare, dove comunque chiunque può partecipare, può dare il proprio contributo. È importante secondo noi ribadire che non è la legalità il metro di misura delle cose belle, ma che fuori dalla legalità, da quella che poi alla fine è sempre, diciamo, un criterio come dire storico, cioè legato a un periodo storico, ma in realtà fuori dalla legalità ci sono comunque esperienze belle, ci sono esperienze di grande ricchezza culturale, politica e sociale. Ecco, per questo noi non abbiamo mai desiderato una qualsiasi forma di dialogo con l'amministrazione locale, qualsiasi essa fosse, perché comunque pensiamo che poi alla fine quale che sia il colore dell'amministrazione, quale che siano le intenzioni più o meno dichiarate, però poi alla fine la gestione dei territori urbani si riduce poi al consumo, al profitto, e consumo e profitto però significano ricchezza per poche persone, ma anche sfruttamento per tante altre persone. Lo vediamo anche adesso accanto, diciamo, a un processo di turistificazione che dura ormai da tanti anni, che non è sicuramente legato a questa amministrazione, che è un processo che è già in atto da tantissimi anni e che ha trasformato in maniera visibile il centro storico. E dall'altro lato, per esempio, adesso abbiamo visto l'approvazione del nuovo regolamento di sicurezza urbana, che comunque indica il tentativo di trasformare la città appunto in una vetrina sulle parole d'ordine che conosciamo, il decoro, la legalità. Poi alla fine la città si trasforma, chi ha il privilegio, chi ha le disponibilità economiche può mangiare, si può divertire, però dall'altro lato chi invece magari si vuole bere una birra per strada, chi vuole fare socialità senza fuori dalla logica del consumo pagante, chi vuole solo, diciamo, divertirsi stando in strada, anche solo per farsi una partita a pallone, o appunto chi porta avanti percorsi di lotta, percorsi di autogestione, in realtà deve essere messo fuori dalla almeno dal centro storico, che deve essere tutto a uso e consumo di chi viene qua per turismo, di chi si vuole divertire. Anche là il turismo pagante, il turismo privilegiato, e questo significa anche mettere fuori dallo spazio urbano anche, diciamo, tutto quello che non si vuole vedere, tutte le composizioni sociali più fragili o più marginalizzate, tutti i corpi non conformi, tutte, diciamo, penso anche a come si è trasformato un territorio come Piazza Garibaldi, dove che è un luogo di vita tradizionalmente delle persone migranti, oggi ha subito ormai una fortissima trasformazione, dove c'è una tensione repressiva fortissima. Quindi per noi, diciamo, significa questa è proprio la logica con cui si vuole gestire la città. Non è un caso, Napoli è una città da tanti anni ormai al dissesto economico, il Vangelo dell'austerity predica che bisogna mettere a profitto il patrimonio comunale, quindi è chiaro che esperienze autogestite, esperienze di base che non rispondono a logiche di valorizzazione e di profitto vanno neutralizzate, vanno messe fuori. Ecco, proprio per questo facciamo anche un po' di radio di servizio. Se volessimo dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, dove andarsi a informare, tra virgolette, o comunque a ricercare notizie, novità, iniziative, proposte ideologiche e politiche anche, puoi darci dei contatti, dei riferimenti, diciamo così? Beh, ci sono comunque tutte le... Oggi inevitabilmente siamo un po' legati a Facebook, è uno strumento che non ci piace particolarmente, anzi non ci piace per niente, ma inevitabilmente è lì che raggiungi le persone, quindi ci sono le... c'è la pagina del laboratorio occupato SCA, l'OSCA, e la pagina di Officina 99, così come le pagine degli spazi sociali cittadini, dove appunto ci sono gli eventi, dove si producono comunicati e dove comunque ci sono continui aggiornamenti sui percorsi di lotta e sulle iniziative che ci sono in città. Perfetto, allora noi abbiamo concluso il nostro tempo, è stato un vero piacere, ti ringraziamo. Grazie a voi. Allora speriamo di incontrarci in strada al più presto. Ci vediamo presto in ciao, strada. Grazie. Ciao a tutti e a tutti. Ciao, grazie. We'll be right back. torna a Radio Plaza. Ancora siamo in chiusura di questa puntata specialissima, ovviamente la voce che ci sta accompagnando fantastica di Battiato, però prima abbiamo ascoltato il brano Attica Blues parte 1 dall'album Live at Palais de Glace del 1979 di Archie Shepp e Attica Blues Big Band. Sì, il brano si inserisce su un fatto storico realmente avvenuto. Nel gennaio del 1972 Archie Shepp registra Attica Blues in omaggio alle vittime della più grande rivolta carceraria nella storia dello Stato di New York. Quel 9 settembre 1280 detenuti di Attica prendono in ostaggio 38 persone fra guardie penitenziarie e impiegati, chiedono il riconoscimento di un manifesto programmatico contro le sempre peggiori e umilianti vessazioni carcerarie. Dopo giorni di trattative il tavolo salta e la mattina del 13 settembre due elicotteri s'alzano sopra Attica sganciando gas lacrimogeni che spianano l'irruzione di 500 agenti di polizia. Risultato: muoiono 43 persone, 10 ostaggi e 33 detenuti, oltre a 200 feriti. Grazie Carmine per averci raccontato l'origine di questo brano. Intanto sentite ancora sotto le note di Battiato e ci andiamo verso i saluti. Radio Plaza finisce qui live ora dalla piazza di Scisciano, dal Sanacore Folk Festival. È stato un piacere partecipare a questa edizione del 2022. Già cominciano a intrasentire i rumori da palco. Si intrasentono rumori, intrasentono. Sì. Siamo pronti per il live. Il palco è pronto. Stiamo per dare voce ai presentatori, il presentatore e la presentatrice di questa edizione di quest'anno del 2022. Radio Plaza vi saluta con l'ultimo brano dal vivo. Siamo ancora in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Andrà in streaming lo spettacolo teatrale e poi il concerto. E intanto ringraziamo tutte le persone, ringraziamo chi è stato al tavolo, chi ha ascoltato da lontano, chi ci ha invitato, chi non ci voleva, chi ci ha voluto di più, chi ci ha voluto di meno. Noi ci siamo stati benissimo. Vogliamo ringraziare anche tutto il pubblico che è rimasto qui paziente ad ascoltarci, a sopportarci in attesa del grande concerto e del grandissimo spettacolo teatrale che sta per iniziare. Un ringraziamento particolare a quelli che cucinano, a quelli che servono al banco, un ringraziamento molto particolare a chi ha montato tutte le luci, gli stand, e inoltre vorrei fare un ringraziamento, diciamo, preciso a Francesco Evangelista qui al mio fianco. Eccolo, è tornato l'Evangelista. L'Evangelista mi ricordava, non vuole dirlo lui, lo dico io, ricordava che alla cassa, quando si va a prendere il panino, la pasta e si mangia e si beve, c'è anche la possibilità di partecipare alla lotteria, che è in sostegno di una raccolta fondi per il Gridas. Vi faccio notare che Francesco parlava accanto a me, io ripetevo quello che lui mi diceva. Tutto però, improvvisato, improvvisa Radio Plaza. Io questa volta sono davvero contenta perché finiamo la puntata con una delle mie cantanti preferite, cioè Carmen Consoli. E con uno dei miei pezzi più odiati. C'è Carmen Consoli insieme a Lautari dall'album a Re del 2007. Il brano è Malarezza, questa è... Malarazza! Oddio, Malarazza, ho sbagliato. Era bella anche Malarezza. Era bella anche Melarazza. Questa è Radio Plaza! Radio Plaza! Arrivederci a tutti. Che decea visto lume pagione mi sciapazza mi tratta come un cane e la vea si piglia tutto cu la somananza manco la vita mia dici che è mia distruggila Gesù sta mala razza distruggila Gesù fa lupi mia distruggila Gesù fa lupi mia tu ti lamenti ma chi ti lamenti picchia lo bastone e tira fuori i denti ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti. Fora i denti, tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fora i denti. Un grande applauso per Napoleide, Elia Ciricillo, Camillo De Felice. Make some noise. Grazie, grazie, eccoci qua, siamo, voi pensavate eravamo in 12, siamo in 2, gli altri 10 li abbiamo lasciati a casa, però è stato un discreto applauso, però noi stiamo facendo una tournée in giro per l'Italia, ieri stavamo a Messina, abbiamo fatto un viaggio lunghissimo per arrivare qua, per fare questo bellissimo festival Sanacore, quindi vogliamo un applauso per i Napoleide, enorme, grazie. Ad noi la parola lavoro si traduce con fatica. Se la fatica fosse buona e priva di faticassero, sentite a me, l'umanità avesse fatica tra la cena e la vacante, 3, massimo 4 giorni, sfacchinando senza fine, travagliando tante ore che rimane la giornata, e l'affetto e passione, la fatica ti fa studare, ci fatica non può suonare, è solo che suona che sa diventa saggia, ci stanno rubando l'unica vita che teniamo, queste poi lasciamo, mica un videogioco, sim, e loro s'accaniscono, manca respirare, ci lasciano, 5-6 ore una settimana e vedi che ti passa la paura, ormai la fatica è diventata paradosso la fatica, un bello luogo a perdere, un grande piatto vacante. Se fatica per trovare fatica, se fatica per mantenere la fatica, se fatica per non nascere capo, si perde la fatica. Noi siamo nati per campare, no per faticare. Mamma, mamma, che non voglia faticare più, oh mamma, che non voglia faticare più, che questo sole in cielo è troppo bullente, troppo bullente, troppo bullente, cosa sembra, cosa sembra, che questo sole in cielo è troppo bullente. Mamma, mamma, che non voglia faticare più, oh mamma, che non voglia faticare più, volesse fu mestiere, ro presidente, ro presidente, ro presidente, magna se, magna se, e come fanfalle cagando sembra. Mani, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Ne besa la tu gode sala, ci sono i doro de salaiane. Sagolo miliangolo, tangalangolo yane. Sagolo miliangolo, tangalangolo yane. Sala devo de sala, baba si di tu de sala yane. Ene me sala tu de sala, luka rosi i tu de sala yane. Sagolo miliangolo, sagolo miliangolo. Scuola, mini angolo, trigonometria, mini angolo. Sangolo, mini angolo. Significa pelle di serpente. In dialetto bambara del Mali, che qua siamo in Africa. È l'inizio del nostro viaggio. Grazie Shishano per l'invito. E devo adesso Togo de Zalayane, Togo de Zala, più voce. Togo de Zalayane, Togo de Zala, Togo de Zalayane, Togo de Zala, Togo de Zalayane. Sedute a venire a raggiungerci sotto al palco. Ti sento poco, sta facci sano! Molto meglio! Tornello insieme, sagolo mini angolo, sagolo mini angolo, Sagolo mini angolo. Sagolo mini angolo. Gari gari di mettere salene. E via! Angola! E via! Grazie, Guaiù! T'apposto. Alla grande. Faccio un piccolo intervento per i miei amici marocchini, Tunsi, e alla... Guarda della Caleri e voi! Esi, io! Esi! Yalla! Zid! وعبد القادر يا ابوي لندخ الحلالية أداوي حالي يا ابوي لمسير الرفالية وعبد القادر يا ابوي لندخ الحلالية أداوي حالي يا ابوي لمسير الرفالية أداوي حالي يا ابوي لمسير الرفالية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيدي داوي حالي سيدي داوي حالي داوي داوي داوي داوي وعبد القادر يا بوي من داخل خلالية داوي حالي يا بوي لمسيدي غفالية وعبد القادر يا بوي من داخل خلالية داوي حالي يا بوي لمسيدي غفالية Dum tak dum dum dum dum tak dum dum tak dum dum tak dum dum tak dum tak dum dum tak dum tak dum tak dum tak dum tak dum tak. Questa è una vecchia leggenda del Mali. Ora vi facciamo ballare, non vi preoccupate. Thank you.

Parte in Pakistan, lingua Urdu. Must calendar, must. Okay, come on the stage. Come on the stage. Un applauso ai nostri amici. Vieni. Must calendar must. Shishano, ci sei ancora? Siete stanchi? Lo sento, siete stanchi? Tu ali ali ya Però se vi togliete e finisco in ospedale, ma che chi è la IT? Io non parlo napoletano, mi sono offeso, aiuto. Che mi fa? Di già? Dopo. Cerchiami capire, è tanto tempo che non ti vedevo, eppure sono contento. ritorna in Africa. Guaiu, siete stanchi, lo sento. Le mani. La ganga mi ha bambi mamma. La ganga mi ha bambi mamma. Avo sotto ma. Zanica mi ha bambi mamma. Avo sotto ma. Zanica mi ha bambi mamma. Avo metto il gabbia bambi mamma. Avo metto il gabbia bambi mamma. Wallo che ne mani in gobi, ya bambi mamma. Ragosta mani in gobi, ya bambi mamma. Dile un mani in gobi, ya bambi mamma. Stasera per voi alla chitarra elettrica il mitico Antonio Ragosta. Una musica solidale e plein de serie. Ils sont très honnêtes et bien sincères. Come on. Il mitico Tommy Ruggero. Partito il trenino, il nuovo trenino della circumvesuviana, why you? Sergio Di Leo. rise inside from my side. Witness the rise inside from my side. Miss! Hey, is it coming, lamb? Hey, Patrick, come up with the rhythm, but you're shining, coming up on my place, I come up with it, I know. Hey, is it coming, lamb? Hey, Patrick, come up with the rhythm, but you're shining, coming up on my place, I come up with it, I know. Si sono molto stanchi. D'acqua sul palco liscia liscia, se no grazie Peppe. Je suis fou, je suis fou, et laissez-moi être qui je veux moi, ou bien sortez de chez moi. Je suis fou. À toi en français. Non, voyou in francese vero. Je suis fou. Chi è stato? Tu? Je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Laissez-moi être qui je veux moi, ou bien sortez de chez moi. Je suis fou. J'ai le peuple qui m'attend. Pardonnez-moi si je vous dis. Ne me donnez pas toujours raison. Je sais que je suis une erreur. Et dans la vie, je voudrais vivre moi. Elle est dans cette voisine, ne doit pas me condamner, parce que je suis fou. Et aujourd'hui je veux parler. Faites un cap, je vous mets tout dehors. Je suis fou. Et qui ose dire que Thomas Daniel non, c'est pas très bon. Je ne sais pas de ma vie. Je suis même diplômé. Et le visage en noir, je n'ai pas pour me faire remarquer. Ma Daniel a grandi, oui. Ma Sangere tu cucù, la si fu. Je suis fou. Et me casser pas les couilles. Voyou, non mi sento più. Bel corretto tutti insieme. Tre, Tommy, qua presente, è di Bologna, però vi posso assicurare che studia il napoletano, come si dice, in modo molto assiduo. Caggiadì. Ah, caggiadicere. Caggiadicere. Scusate. Scusa, quella lezione lì l'ho mancata. Mi permetto di correggere con la mia pronuncia del cazzo di Grumolevano. Tutto bene, magnifiche? Vorrei invitare sul palco un amico mio e un amico suo soprattutto, fratello, che si chiama Luca Rossi. E vorrei fare una canzone di Eugenio Bennato, se vi va. Hai raggio sentuto una musicana, hai raggio sentuto sta musicana, a una festa di nessun, senza setta né padrone, a una festa d'une quante, senza diavoli, senza e sono 14. Come va, guaio? Luca Rossi, così poco vai io, Luca Rossi! Luca Rossi. Grazie Sandro Joyer. Stanco. Ragazzi, siete stanchi, lo vedo. Lo vedo tantissimo che siete affaticati. Questa è una pizzica di Madagascar. Quand les bourgeois arrivent, rendez-vous sur les rives des océans, des lacs, des fleurs, des nino. Des magies, des musiques, des saveurs. Venez, venez voir, c'est le point de chez vous. Venez, venez, approchez, on va pas vous manger. Venez vous asseoir avec moi. Sous les mani, eh monsieur l'agent, on n'est pas demandé, on n'est pas détruit, non, eh monsieur l'agent, laissez-nous avec vous, même si la peine de sortir des gens, eh monsieur l'agent, on n'est pas demandé, on n'est pas détruit, non, on n'est pas des braqueurs, on n'est pas des brigands, eh laissez-nous avec vous. Luca Rossi spia, per favore. Luca Rossi spia. 57. Eccolo, è arrivato. grazie. Alla batteria Tommy Ruggero, voglio non vi sento per Tommy Ruggero. Grazie. Ale. Ale. Luca Rossi. No, why you stavo pazziando, eh? Stavo pazziando. Solo una. Tanto lavorate domani? E allora la boh. Ayuba, che ora ti svegli domani? Occhio sulle mani, ragazzi. Aberville, Aberville, Aberville, Aberville, Aberville. su le mani. Non sento nulla. Su, su, su, su, su. Grazie all'organizzazione del Sanacore Festival, siete bellissimi, grazie Francesco, grazie a tutti, grazie Giovanna, grazie a Radio Plaza, non vi sentiamo più. Sergio Di Leo, un applauso! Non sento niente per Sergio. Non sento niente per Sergio! Adelil, Adelil, Adelil, le piace morra, che, Adelil, Adelil, Adelil, le piace morra, che, Adelil, Adelil, Adelil, le piace morra. Grazie! Cazzo! Ma dov'è? Aro vai! Dove vai? Aro, ma Aro vai, comba! Stava venendo a darvi un bacino! Ha avuto 7 volte il Covid! Ragazzi, facciamo l'ultima. Tratta che tante che te ghenghes. Tratta che tante che te ghenghes. Volevi fare tutti insieme o solo? Ma la facciamo con Luca Rossi. Luca Rossi! Luca Rossi! Se, se, se, se. Luca, ti aspettiamo sul palco. Se la magale che la guardo manchino. Se la magale che la guardo manchino. Se la magale che la guardo manchino. Se da magale che la guardo manchino. Nangarawa. Il pezzo non inizia così. Grande che tende che ti che ghes. Grande che tende che ti che ghes. Se che che da che. Se da magale che la guardo manchiteo. Se da magale che la guardo manchiteo. Se la manca che la guardo manchino. Se la manca che la guardo manchino. Se ti vedo, a te mi desfaccio. Un etero santo, a te lo prendo. O mi ne vaghio, a te mi la video. La regia di a te la giù di tutto. Fammi parlare, a te mi Ciao, grazie, alla prossima! chitarra Antonio Ragazza. Siete stanchi, lo vedo. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dans les matines, dans les matines, ding dong, ding dong. Applauso al nostro Luca Rossi nazionale. Camionneur de la Seine. Dans ma cabine, à mettre sur deux ma vie, ma routine. regarde les grands espaces et je me ressasse. Sur les paradis où je suis passé sans jamais pouvoir m'y arrêter. J'ai du coup des petits trottoirs dans les petites routes. J'ai du coup des petites rien d'autre sur ma route. Des routes cantonales internationales. Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina ciao, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato quanti ci sono? Per la libertà. Grazie Cisciano, siete bellissimi. Vi voglio bene. Ci vediamo in breve. Sandro Joyeux! Sandro Joyeux! Luca, vieni sul palco, facciamo un bel saluto. Vieni. Guaiu, ti sei fatto male.